comincia Happy Smile su CRM Happy Radio. Power Back. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui. Per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. Sanremo, in origine la cantarono gli Oro e poi molti artisti naturalmente hanno ripreso questo singolo. Buon pomeriggio, ben ritrovati anche per quest'oggi all'interno di Happy Smile. Vi rendiamo il pomeriggio più allegro con un sorriso, ma soprattutto con tanta buona musica. Chi vi sta parlando? Isabella Elardo, chi è che dirige il tutto, quello che sceglie la musica, quello che pigia tutti i tastini, controlla i volumi. Diamo un buon pomeriggio anche al nostro Iago dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo come sempre iniziato con il Power Back, il disco rispolverato. In questo caso abbiamo scelto e preferito la versione di Andrea Bocelli insieme alla grande voce di un'altra grande artista, Giorgia, Vivo per lei. vi do le giuste coordinate anche per passare questo lieto pomeriggio di inizio settimana insieme a noi: 335 56 37 251, isaia@crmvradio.it, naturalmente la nostra pagina ufficiale di Facebook, e poi naturalmente anche lo 0921 423 45. Dopo il disco rispolverato dal passato, noi ci piace naturalmente farvi ritornare ai tempi di oggi con la musica nuova. Eccola subito lì, Diaspora con Running for Cover feat. Bob Handy. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running for cover. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running for cover. Jump down, no have no war, just a killing spree. There's confusion near and far, nobody no free. Terrorism, red alert, Iraq is ablaze. What's going on in the earth? I am so amazed. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running, running, running for cover. Now we have a nuclear world, every country running scared. But I and I don't have no fear. Is this the Armageddon that was prophesied? Every country, every land seeking to be nuclearized. I wonder what will happen the world over. Running for cover. E allora anche per oggi saranno due le ore che passeremo insieme. Speriamo che anche per oggi ce la metteremo tutta, vi faremo ascoltare tanta buona musica. Anche per oggi il tutto naturalmente, oltre alla musica, sarà arricchito dalle notizie che siamo andati lì a scovare naturalmente per voi. Parleremo del nuovo singolo di James Blunt, e non solo, parleremo del tour di Jamiroquai. Questi sono un po' gli assaggi che vi faremo ascoltare quest'oggi. Adesso invece arrivano i Maroon 5, Give a Little More. Thank you. Stai ascoltando Happy Smile con Isabella Ilardo. Si tu no vuelves, se secarán todos los mares. Yo esperaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Si tu no vuelves, mi voluntad será pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando. Perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. No sé lo que haré. Se vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Lui è Miguel Bosé col featuring di Shakira, un pezzo di qualche periodo fa che però è bello riascoltare, molto piacevole, molto soave. Poi la voce di Shakira è veramente incantevole a dir poco. Caparezza invece torna con un nuovo disco. A 3 anni dalle dimensioni del mio caos pubblicherà un nuovo album il prossimo 1° marzo. Il titolo della release ancora non è stato ancora annunciato, ma intanto però andando sul sito ufficiale dell'artista sono visibili alcuni mini filmati che anticipano poi l'arrivo del disco nei negozi. Poi lui annuncia che subito dopo l'uscita di questo disco praticamente partirà subito in tour. Ci avrei giurato tanto che il nostro Iaco mandava un pezzo di Caparezza, e siccome lui è strano non manda i soliti pezzi, però un pezzo orecchiabile, un pezzo grazioso, carino, io già l'ho ascoltato e quindi promette bene per il prossimo ascolto. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'interno di Happy Smile. Questo è un estratto di me che lotto, calma le acque dotto, che fatto che ma sutra, io sempre tutti sotto, non mi gaso, non è caso, al massimo è un caso da Johnny Passotto. Ero ad una festa tra MC del Drums, mi si disse una gem, tu non sei delle holograms. Scacciato da chi dottrina la rima, manco il tempo di mangiarmi la nonnina e succhiarmi una Fisherman. Cosa è successo non lo so quella sera. Oh salve Madame Tussaud, è qui per la mia brutta cera? Vado sul palco e mi respingono. No, e chi siete? La sera è la bandiera. Sono vietato e minorato, spinto dai dirupi, da chi vuol per sé, tutti i pupi pure amati. Avanti la noia, la musica è troia, e nel mio cavallo basso c'è un ammasso di soldati. Nunzio Volvis, Volvi umano. Apremo scappa. Apremo scappa. Nunzio Volvis, Volvi umano. Come crocifisso di appena non ho collocazione. Inutile cercare tregua nella religione, se nemmeno Geova mi vuole come suo testimone. 8 per 1000 c'è la fama, come dura la salita, se ce la fai ti dicono ma va fan. Nei confronti della vita un approccio sodomita, ma mo basta, terrò le spalle al muro. Parlo chi t'ha già consente, parlo con chi t'ha già consente. Mi scusi, lei non sente. Sto lontano da chi ride sempre, per non finire tra gli oncini che tiene nelle fossette. Non mi si sbrana, io mi assumo rischi, tu continua ad assumere marijuana. La creatività o la si ha o non la si ha, chi non ce l'ha, ma dove va come con la banana. Lucio Volvi, Volvi umano. Apremo scappa. Apremo scappa. Lucio Volvi, Volvi umano. Apremo scappa. Apremo scappa. Ti piace Kappa? Ma quello è lo scemo di Sanremo. Bravo, vuoi qualcosa di più scemo? Ascolta il tuo demo. Dietro la patina collerica, buona domenica per quanto sei estremo. Pieno con pochi amici che mi sono fatto, e tutti indignano il loro padre nel mio piatto. Ma porco Giuda, avete il vostro un minimo di rispetto. Sei tu Mickey Mix? Tu hai detto, recito il ruolo che mi sta stretto. Vuoi capirmi? Lascio il ponte e prendo un cazzo di traghetto. Penso di aver torto, se c'è chi è d'accordo con me, non ricordo nemmeno dove l'ho letto. Che faccio? Mo che come Petrolini mi dicono bravo pure quando taccio. Se taccio termine non termino, se vado a braccio, ma sono io colui per cui mi spaccio. Nunzio Volvi, Volvi umano. Apremo scappa. Apremo scappa. Nunzio Volvi, Volvi umano. Apremo scappa. C'è poco da fare, no? Lui è sempre strano. Parliamo di Caparezza con Apremo scappa, che state ascoltando ancora in sottofondo. Invece io voglio parlarvi di Valerio Scanu, che torna on stage, ha annunciato le sue prime date live di questo 2011. L'1 e il 2 marzo si esibirà al Blue Note Milano e il 12 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Quindi per tutti i fan, prendete carta e penne, appuntate e procuratevi principalmente biglietti. Questi sono solo poi tra l'altro 3 dei 10 dei concerti del nuovo tour che porterà Valerio in giro per la penisola, durante il quale canterà naturalmente, oltre ai successi dei suoi precedenti album, anche i nuovi brani del suo ultimo lavoro Parto da qui, che tra l'altro è uscito a novembre, quindi da poco. To tell you how I feel, and though I try to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the what you say. Sono gli Alts con la loro Stay. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo, dai, ce lo concedete, naturalmente un caffettino, e poi naturalmente si ritorna con la musica qui all'interno di Happy Smile. Lo si fa insieme al nuovo singolo di James Blunt con la sua So Far Gone. Stai ascoltando Happy Smile. Eccolo lì che dopo il successo europeo di Stay the Night, James Blunt torna con il secondo singolo estratto dal suo ultimo album, nonché Some King of Trouble,

Follow. Lui è Bon Jovi, che si trova al primo posto col Circle Tour tenuto dalla band nel New Jersey nel 2010, pensate, con 80 show a livello globale, che ha guadagnato di più lo scorso anno praticamente con un cazzo di 201 milioni di dollari. Il gruppo naturalmente capitanato da Bon Jovi ha battuto colleghi, pensate, del calibro di AC/DC e U2. La rock band, tra l'altro australiana, ha conquistato invece il secondo posto con 177 milioni di dollari, seguiti da Bon e Soci con 160 milioni. Tra gli altri presenti nella top 10 si contano Metallica, Paul McCartney, Roger Waters, The Eagles, e non poteva mancare Lady Gaga, che nella classifica spunta con i suoi 138 concerti e quarta nella classifica con 133 milioni di dollari. Ci fermiamo per una pausa e dopo si torna ancora con la musica. Stai ascoltando Happy Smile. Poor girl living in a rich world, named her baby Hope when she was just 14. She was hoping for a better world for this little girl, but the apple doesn't fall too far from the tree. When she gets that call, Hope's too far gone. Her baby's on the way with nothing left inside. Together we cry. What about the John Wayne? Could have gone the whole way, lighting up the stage, trying to get a deal. Now he's lighting up the wrong way, something for the pain. Man, you wanna see this kid? He was so unreal. When he gets that call, he's too far gone. To get it together, sing one song. They won't hear tonight the words of a lullaby. Together we cry. Oh, wanna be a politician. She'd been dreaming about it since she was a girl. She thought that she'd be the one who could change the world. Always trying to pave the way for women in a man's world. Life happened, house, kids, two cars. Husband hits the jar, checks that don't go very far now. Now she ain't making changes. She keeps her mind on her wages. The only rattling cage is together we cry. Sad gonna flood the ocean. For all it tears for a world that's broken. Together we cry. Bird has to fly. At some point, every rose has to die. It's hard to let your children go. Leave home, where they go, who knows? Getting drunk, getting stoned, all alone. Teaching them to fish and feeding them a lie. You show your kids the truth, hope they never lie. Instead of reading in a letter that they got to something better, bet you're sorry now. I won't be coming home tonight. I'm sick of looking for those heroes in the sky to teach us how to fly. Together we cry, together we cry. Naturalmente loro li avete riconosciuti, loro sono i The Script, la loro We Cry qui all'interno di Happy Smile anche per quest'oggi, anche per questo pomeriggio, questo inizio settimana, naturalmente questo lunedì. Saremo due ore insieme, già un pochino ce la siamo masticata a nostra disposizione, però è bello continuare, poi alla fine ancora c'è tanto tempo da parlare. Io voglio salutare tutti gli amici, non solo quelli che ci ascoltano nel live, ma naturalmente tutti quelli, perché so che sono veramente tantissimi, quelli che ci ascoltano nella replica, quindi nel serale di Happy Smile che va dalla mezzanotte in poi. Ben ritrovati anche a voi, visto che ci state ascoltando naturalmente non possiamo dirvi buon pomeriggio, però naturalmente una buona serata. 335 56 37 251, questa è la nostra messaggeria ufficiale, lo 0921 423 456, naturalmente isaiaco@crmpiradio.it. A proposito della nostra messaggeria, vi dico anche che sono arrivati veramente tanti messaggi, tra un pochino inizieremo anche lì naturalmente a leggerli, ma adesso voglio leggervi una notizia che tra l'altro non è tanto bella, perché arrivare fino a questo punto, io capisco di amare e stimare un cantante, ti piace tantissimo l'artista, la sua musica, però minacciare di morte la compagna che sta accanto, secondo me poi si arriva a un limite troppo esagerato, perché sono arrivate minacce di morte contro Selena Gomez, la giovane cantante e attrice americana è stata bersaglio, pensate, di messaggi davvero pesanti da parte di tante fan di Justin Bieber, perché dopo la conferma ufficiale della loro storia d'amore tra appunto Justin e Selena, i due sono stati fotografati in teneri atteggiamenti, come che sia normale, su uno yacht nei pressi dell'isola caraibica di Santa Lucia, dove hanno trascorso tra l'altro il Capodanno 2011 con alcuni amici. Beh, in rete sono apparsi, dopo queste diciamo foto, centinaia di messaggi minacciando violenza nei confronti di Selena, e alcune giovani stimatrici del cantante canadese hanno addirittura promesso di spedire all'altro mondo la diciottenne. Ma pensate un po' fino a che punto si arriva. Un fan addirittura ha scritto: giuro su Dio che ti ammazzo, e un'altra: ti farò fuori. Noi invece naturalmente gli facciamo tanti ma tantissimi auguri alla nuova coppia e speriamo che tutto fili per il verso giusto, che queste fan si ricredono un pochino, perché mi sembra che stiano esagerando, no? Voi che ne pensate? Crazy over you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. There's some- Something Ok? Ma va? Senti, senti. Fidati di me che qui c'è chi ci sa fare. Sei pronto per ascoltare Happy Smile con Isabella e Lardo. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Talk to the head, cause I know you think the face is gone. Listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. The perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen too much, yeah. Not that the blue sky. Blue sky. How can I tell you I know this won't be the last song? Too much. Not gonna give up on all the days that I know I want. That's where I'm going. Cause there's nothing but blue. Bella questa canzone, si tratta di Jamiroquai, a proposito dei Jamiroquai, tour italiano, la band capitanata da Jason J.K. ha iniziato dopo da poco la tournée europea successiva naturalmente alla pubblicazione del recente disco Rock Dust Lifestyle. In Italia sono previste ben tre imperdibili appuntamenti: 30 marzo Milano al Mediolanum Forum, il 2 aprile a Torino al Pala Olimpico, mentre il 3 aprile Firenze Mandela Forum. I biglietti naturalmente vi comunichiamo che sono già in vendita addirittura dal 12 gennaio, il tutto naturalmente su Ticket One. Ancora ben ritrovati, ancora buon pomeriggio, siete in compagnia di Ise Iago anche per quest'oggi, per questo inizio settimana. E adesso ci buttiamo un pochino sulla musica hip hop. Lo facciamo insieme a Didi e la sua Coming Home. I never felt so strong, and I'm back, babe. I'm feeling like there's nothing I can't try. Nothing. And if you with me, put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and for you. Me, put your hands high. You and your dreams and feel you rock the best. Hey. I'll be on the show. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you. Get the math, I'm gone. Go. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be pump, but it's harder to be shown. What if my twins ask why I ain't married a mom? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night that inevitable prolongs. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the morning. Another lot that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know pain. My kingdom. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. What you deal with and you keep ballin'. That's right. Some lickin' playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. Come it's on. Time to make your house your home. Pick up I'm the phone. Coming come home. Home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming let home. The rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Thank I'm coming you. Home. I'm coming home. Coming Yeah, ain't no stopping us now. I love that song whenever it comes on. Lui naturalmente Diddy con la sua Coming Home, singolo che sta viaggiando veramente per le migliori. Dai, smuoviamoci, altrimenti poi non ce la facciamo e la colpa naturalmente è mia. Allora, poc'anzi avevo detto che sono arrivati già i primi SMS al 3355637251. Voglio iniziare a leggere proprio questo perché mi sembra proprio bello. Allora, ci siete o ci fate? Scherziamo. Volevamo salutare Mari che salvo un anno di felicità insieme, loro anniversario di matrimonio. Auguri da Luigi, Giuseppe, Roberto. No, stiamo un po' pensando, Iago, chissà se ci sarà qualcuno dei nostri amici che il giorno del nostro anniversario ci penserà proprio come questi bravi ragazzi. Beh, se non ci pensano, poi gli auguri ce li facciamo naturalmente noi, quello naturalmente non manca. 3355637251. Adesso arriva Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con il suo ultimo singolo Tutto l'amore che ho, e lo dedichiamo proprio a loro, ai due piccioncini che compiono un anno. In questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto, e se per caso dentro al caos ti avessi perso avrei avvertito un forte senso di risolto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore

Stai ascoltando Happy Smile con Isabella Ilardo. I'm more than just an option. Hey, hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey, hey, hey. And I feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. I'm more than just a number. Hey, hey, hey. I doubt you'll find another. Hey, hey, hey. So every single summer. Hey, hey, hey. I'll be the one that you remember. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. It's more than just a mission. Hey, hey, hey. You hear but you don't listen. Pay attention. Hey, hey, hey. And get what you've been missing. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. Too many times I've been wrong. I guess being right takes too long. I'm done waiting, there's nothing left to do but give all I have to you. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. Better if I give all my love, then nothing's gonna tear us apart. Find Your Love, si tratta di Drake, e diciamo pure che manca veramente poco all'arrivo dei The Script in Italia per l'unico live italiano che si terrà il 10 febbraio all'Alcatraz di Milano. La data fa parte delle tranche europee del tour del trio che si concluderà a fine marzo, quando appunto la band farà tappe in Asia e Oceania prima di intraprendere un tour negli Stati Uniti. Diciamo che il 2011 si preannuncia con l'anno d'oro della band. Adesso arriva il nuovo singolo di Avril Lavigne, What the Hell? You're on your knees, begging, please stay with me. Stai ascoltando Happy Smile. London, Belfast and Berlin. ma tante sorprese in arrivo dagli U2. La band potrebbe pubblicare, pensate, ben 3 nuovi dischi nel corso dell'anno. La prima release a vedere la luce sarà Sons of Ancient, seguito da No Line on the Horizon del 2009, la cui data di uscita non è stata ancora annunciata, ma a quanto pare dovrebbe essere in questi primi mesi del 2011. E non finisce qui, perché inoltre è previsto l'arrivo di un altro disco dal nome U2 Jewels, che non sarà disponibile però nei negozi, e per averlo è necessario iscriversi al fan club del gruppo. Questo lavoro sarà una raccolta di alcune delle collaborazioni fatte dalla band negli anni, tra le quali naturalmente figurano quelle con Finn Frank Sinatra, Jay-Z, Johnny Cash, B.B. King e il grande boss Bruce Springsteen. Ma non finisce assolutamente qui, perché sembra che a quanto pare il gruppo abbia intenzione e in preparazione addirittura anche un terzo album, per non finire di stupirci. Ancora buon pomeriggio, ancora ben ritrovati all'interno di Happy Smile anche per quest'oggi insieme a Dise Iaco. Ancora tanti messaggi arrivati al 335-5637-251 che andremo lì a leggere, ma prima, e dico prima, voglio farvi ascoltare un brano. Si tratta di Caro Emerald, della sua A Night Like This. DJ dicevamo, anzi parlavamo dei vostri messaggi, voglio leggere questo. Buon pomeriggio da Laura e Angela, oggi per noi giornata nera, compito andato male, ci rendete più piacevole il pomeriggio facendoci ascoltare i King of Leon, eccovi subito accontentate, e speriamo che questa brutta giornata l'ha buttata alle spalle, tanto sicuramente tanti altri compiti farete, vi impegnerete di più e vedrete che il tutto andrà per la meglio, volere e potere nella vita, io lo dico sempre. Stai ascoltando Happy Smile con Isabella Ilardo. You're stealing my heart away. l'ultimo, proprio l'ultimo rush finale per quanto ci riguarda per questo inizio settimana. Io voglio andare a leggere gli altri messaggi che sono arrivati, altrimenti non ce la fa proprio. Picciotti, come va? Ma perché ce l'hanno sempre con i più deboli e non si mettono alla pari con gente uguali a loro? Davide, e perché Davide? Perché la vita è ingiusta, perché quelli più forti degli altri si sentono forse, a mio parere, talmente grandi che... talmente grandi, poi tra virgolette, perché se si sentissero grandi giustamente andrebbero lì a parificarsi con quelli della loro stessa specie, se possiamo chiamarli, e non con gente più debole, con gente che naturalmente non si sa difendere. Però la vita purtroppo è questa, caro amico. Arriva l'ultimo singolo dei Muse e poi parliamo anche di loro. A proposito dei Muse, sentite un po' che idee che hanno. Allora, i Muse vogliono suonare nello spazio, a dichiararlo è stato il frontman del gruppo, nonché Matthew Bellamy. Abbiamo discusso a lungo sulla possibilità di suonare nello spazio, qualche volta sono state conversazioni molto serie, altre volte le abbiamo fatte a tarda notte, ma è una possibilità concreta. Il leader dice che grazie alla tecnologia prima o poi riusciranno a realizzare questo sogno. Intanto Matt si porta avanti e intende chiedere a Richard Branson, il proprietario della Virgin, se tutto questo praticamente sarebbe, come dire, possibile fare questo grande concerto nella nave spaziale Virgin Galactic. Anche se abbiamo tantissimo equipaggiamento, quindi credo proprio che dovremmo ridurlo di parecchio, penso che questa cosa sia realizzabile e sono certo che accadrà nel corso della mia vita. Poi ci piacerebbe un sacco fare parte di un evento simile, aggiungo appunto il cantante, e chi lo sa che non riusciranno a mettere in atto appunto questa situazione. Ancora messaggi. Ciao Isa, sono Mauro, grazie per la bella musica che ci fai ascoltare. Beh, più che far ascoltare io la bella musica, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché appunto è il nostro Iaco che dirige il tutto, che sceglie la musica e che quindi ve la fa ascoltare. E il messaggio continua ancora: oggi il mio 22esimo compleanno, cosa mi regalate? Cosa gli regaliamo? Intanto un mondo di auguri, che penso è la cosa più importante, tanta felicità, tanta serenità, e poi NGB. I've been such a long time coming. this time that I was wasting. Broken heart was only yours to lose. La sua San Juarez, dedicata al nostro Mauro che quest'oggi compie il compleanno. E anche quest'oggi invece noi chiudiamo i battenti, ce ne andiamo a casa, le nostre due orette ce le siamo pappate, vi abbiamo regalato veramente tanta bella musica e stavolta quest'oggi non ci metto il forse perché è stata veramente un bel appuntamento. Noi vi salutiamo, vi saluta anche il nostro Iaco e naturalmente vi aspettiamo quando? Ma naturalmente vi aspettiamo mercoledì con un altro appuntamento carico all'interno di Happy Smile. Ciao belli, voglio salutare anche naturalmente tutti, ma proprio tutti quelli che ci ascoltano nelle repliche in podcast e naturalmente tutti quelli che ci ascoltano nel corso delle nostre repliche dalla mezzanotte in poi. Buonanotte anche a voi. I heard you say, and it's all because I heard you say, and it's all because I walked your way, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, I heard you say, I heard you say. Around.